Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: smetti, dai, tu mi fai il pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. Annibale Covini Gerolamo ha letto il primo capitolo delle avventure di Pinocchio, scritto da Carlo Collodi nel 1883 e in pubblico dominio.